avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Siccome sono convinto che ieri abbiamo parlato troppo di felicità e ci siamo troppo aperti il cuore, e siccome questa mattina vedo che è una bella giornata, si comincia a sentire nell'aria la primavera e quindi i cascami dell'inverno vanno abbandonati, occorre tirare fuori questa mattina quelli che sono i cascami della nostra fanciullezza. Ricordiamo tutti con nostalgia gli anni felici di quando eravamo bambini, ma erano anni terribili. Questa mattina vorrei, se possibile, istigare chi mi ascolta a tirare fuori i ricordi tristi della propria infanzia. Guardate, è paradossale pensare che l'infanzia sia costellata di ricordi tristi. Eppure io ricordo che con grande successo, una decina e oltre di anni fa, lanciai una campagna per riscoprire i bambini tristi che erano in noi. Ricordo che allora non esisteva ancora internet nella forma in cui esiste oggi, era un po' prima, forse 2008, era 1998-99, qualcosa del genere, il 99. Lanciai questa campagna alla radio sui bambini tristi, perché io osservai da alcune foto che avevo negli album di quando ero bambino che ero sempre rappresentato triste. E poi mi spiegai anche perché ero rappresentato triste, perché ero costretto a essere comparsa non consenziente in una sorta di sceneggiata dove rappresentare un quadretto familiare. E notai quelle foto mi accomunavano a tutta una serie di foto classiche, standardizzate, che legavano anche molti altri miei coetanei. Per noi ragazzi degli anni 50 e 60, naturalmente, le foto tipiche erano quelle che rappresentavano i primi segni dell'opulenza. Quindi la scampagnata con l'automobile, con la tovaglietta da picnic, con il cestino e nelle situazioni peggiori con i sedili dell'auto smontati e messi a mo' di seggiolina. Oppure le prime vacanze al mare con gli ercolino sempre in piedi, con le mucche caroline, con le foto sorridenti, col secchiello e la paletta in mano. E poi via andando avanti, foto tristissime, foto ci rappresentavano nella recita di carnevale, costretti a mettere dei costumi che per noi erano scomodi, o ancora peggio di andare per strada in città col vestito di carnevale sopra il cappotto perché faceva freddo. Inutilmente avevamo accumulato la gioia e l'attesa per lo sfarzo di quel vestituccio che ci portava fuori dalla nostra triste realtà, ci mettono sopra il cappotto che diventava il suggello, impiombava, il baluardo ad ogni immaginazione, l'impossibilità, il chiavistello ad ogni fuga fanciullesca. E via dicendo, i nostri papà e le nostre mamme, con la loro ferrania o con la loro coda, che immortalavano in delle piccole foto o in delle polaroid che poi si colorivano molto presto, questi momenti della nostra tristezza. Beh, io collazionando le foto e mettendole a confronto di varie persone, per vari mesi feci la rassegna dei bambini tristi e scoprì che ognuno di noi comunque ha avuto dei profondi, lancinanti e seppelliti poi dalla terapeutica maniera di cancellare ricordi spiacevoli nella nostra memoria. Per questa mattina vorrei nuovamente rilanciare l'idea che noi possiamo aver avuto dei momenti tristi. Non sto parlando di estreme violenze, non sto parlando di qualcosa che fa gridare vendetta alle leggi divine e alle leggi umane, ma no, quelle semplici, tollerabili, banabili, sottilissime, mellifue, dolcissime tristezze di noi fanciulli. Della mia infanzia ricordo che una volta gli insegnanti erano più severi di quelli di oggi e davano punizioni che oggi non si userebbero più. I maestri erano temuti a tal punto che nessuno osava contraddirli. Anzi, i nostri genitori cercavano di ingraziarseli con piccoli doni. Ricordo che all'inizio delle lezioni si faceva il controllo della pulizia delle mani, del collo e delle orecchie. In generale, l'educazione del passato era fondata sul silenzio e sull'obbedienza. In caso contrario, c'erano bacchettate, specie sulle mani, e la punizione di stare in ginocchio dietro la lavagna con sassolini o acini di mais sotto le ginocchia. Questa trasmissione è venuta in mente a Fabrizio Intonti e a me questa mattina, quindi abbiamo assemblato quello che abbiamo trovato sotto mano. Questo lo abbiamo trovato preso da un blog su internet. Sembra che vada ad attingere i ricordi lontanissimi di civiltà arcaica in cui i bambini venivano battuti, venivano frustati, venivano costretti a pene corporali. Beh, nella scuola elementare che io ho fatto e ho frequentato dall'anno 1960 all'anno 1965 era l'ordine del giorno. Era normale che la maestra avesse una canna e la desse in testa a quelli che arrivava appunto ai primi banchi con la canna, se no si alzava, se no li costringeva ad andare alla cattedra, si mostravano i palmini e venivamo battuti. Non erano cose che lasciavano segni di sangue. Oggi YouTube è pieno di filmati di denuncia dove in paesi dove vige la legge coranica più stretta, ci sono insegnanti che picchiano, frustano, bastonano i ragazzi, ci sono dei video terribili. Sembra appartenere a una civiltà lontanissima, ma chi oggi ha il filo dei 50 anni sa esattamente che la punizione corporale faccia parte comunque dei sistemi educativi di quegli anni. 800240024. Cosa ricordate voi di triste della vostra fanciullezza? Ma non mi rivolgo solamente a coloro che hanno una profondità anagrafica simile alla mia. Vorrei sapere qual è il passo avanti, qual è nei bui ma allo stesso tempo pieni di rimpianto anni 70 e che contraddistinse la stigmata della tristezza più profonda nelle fanciullezze di chi mi ascolta. Gli anni 80 sembravano all'insegna dell'edonismo, dell'ottimismo più assoluto, ma anche lì saranno stati dei ricordi tristi. 800240024. Leonardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sono contento che qualcuno abbia subito abboccato al mio amo. Eccomi qua. Dunque, ricordo triste che ho io di un'infanzia che altrimenti stava favolosa come tutte le infanzie, è quello della colonia al Marina in cui andai a 6 anni, a Riccione mi sembra. Erano dunque organizzate, credo, da opere pontificie. Sì, erano sempre preti e monache. Sì. Oggi, preti e monache, esatto. Oggi se dico mio figlio che ha 15 anni, la colonia, sì, pensa che sia il profumo o pensa che sia una città, non sa cosa fosse, ma la colonia era la minaccia. Se sei cattivo l'estate ti mando in colonia. No, dai, per noi deve essere un divertimento, cioè tanti amici, sì, del paese mio, insomma, ci sentono anche bene. Io invece mi trovo malissimo perché, non lo so, insomma, c'erano spiagge coperte quasi sempre di residui di pesci, un puzzo insopportabile. Sì, erano i posti più schifosi dove non c'era turismo, è chiaro. Poi, durante questa vacanza, un ragazzo fu investito da un'auto, e anche quello non morì, comunque rimase ferito. Poi, come si mangiava la colonia? Ma io mi ricordo le gallette c'erano per merenda, che sono quelle che davano nella razione ai militari, evidentemente per una sorta di perverso giro qualche maresciallo poi le passava ai preti che le davano ai bambini. Ho capito. E mi ricordo soprattutto che andavamo a fare la pipì intorno a un vascone, sì, con il rischio anche di caderci dentro. Bisognava fare intorno a sto vascone e malodorante si doveva fare pipì. Ah, quello cioè era un obbligo della colonia, quello era, diciamo, la latrina pubblica. La latrina pubblica. E poi ci sono altri bei ricordi di fanciullezza che rendono triste questa mattina di primavera. Ma triste, no, io ho creato nei paesi, anche io sono umbro, insomma, erano a casa mia, io nel paese mio avevo dei ricordi fantastici perché stavamo sempre nei boschi. Noi voglio quelli tristi, questa mattina solo ricordi tristi, quelli fantastici. Ricordi tristi, ecco, questo poi sinceramente non me ne viene sul momento. Vabbè, vuol dire che ha avuto, tutto sommato, è limitata l'area, diciamo, corrotta da ricordo triste, quindi buona primavera a lei. Lucia, buongiorno. Buongiorno a lei. Un ricordo triste, di quelli tosti. Di quelli tosti, il più tosto che rammento, l'insegnante, la maestra, chiedeva un obolo per beneficenza, e in effetti la faceva, ma diciamo premiava questa beneficenza che ognuno poteva portare con dei premi più o meno importanti. Ed io, che all'epoca ero molto povera, famiglia, potevo portare solo ogni tanto. Quando dice l'epoca, più o meno che anni sono? E dunque io ne ho 67 e parlo delle elementari, nata nel 43. Quindi anni 50. Anni 50, sì. Bene, sono proprio i periodi in cui individuo il il punto più alto della tristezza infantile, gli anni in cui i genitori erano protesi verso questa sorta di miracolo del boom economico, quindi ci eravamo scordati le pezze al culo che si erano portati fino a 10 anni prima, e tutti immaginavano questa sorta di plastico sogno della resurrezione fatto in Moplen, fatto in Velcro, fatto in queste sintetiche ricostruzioni. E io ero proprio le pezze al culo, come dice lei, e quindi vivevo questa differenza ancora. Noi infatti eravamo stretti, perché fra un'aspirazione e una realtà che ancora non era elaborata, noi stavamo stretti e ne facevamo le spese, naturalmente. Sì, sì, sì, ma non solo io, c'erano altri bimbi, bimbe accanto a me che vivevano esperienze similari, insomma, non voglio dire... La maestra vi chiedeva di portare queste sorte di oboli per la beneficenza, però era una gara all'ostentazione del potere. Esatto, io quindi già ero relegata come altri. Ma lei si ricorda qualche regalo che portava qualche bambino più benestante o più fanatico? Così a memoria mi sembra fossero anche barchette, casette, fatte tipo con stuzzicadenti forse. Dei piccoli lavoretti di artigianato domestico. Esatto, che venivano dati ai bambini, ma erano grandi e importanti in funzione di quello che si era dato, ecco. Quindi c'era una grossa differenza. E lei cosa portava? Non so, delle pupazzetti di mollica di pane, cose da poveri? No, povero. La richiesta era in denaro, il premio era fatto di queste cose. Davano un premio simbolico, finto, e volevate portare i soldi, ecco. Sì, esatto, per beneficenza. È chiaro, Lucia, questo l'avrà segnata profondamente, ma dirlo questa mattina vi farà sentire più leggeri, vi farà sentire meglio. Il regalo di primavera che vi faccio io, poi chissà perché la primavera per me inizia un mese prima, però va bene così, sono contento perché oggi è una bella giornata. Quindi Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Un suo ricordo triste. Io ho un ricordo bruttissimo, sostanzialmente me lo porto dietro da quando ero alle elementari. E la mia maestra angariava due bambini della mia classe, una bambina ebrea e un bambino battista, che non erano cattolici, quindi pur essendo una scuola pubblica, non una scuola cattolica. Che anni erano? Dunque io ho 49 anni, erano fine anni 60 fondamentalmente, per i primi 70 via. Diciamo che allora non c'era tutta questa tutela della libertà di culto, e ancora sotto gli davano sotto. E quindi? E quindi, poi tra l'altro io, la cosa peggiore è che mi facevano tenerezza questi miei compagnetti di scuola, no? E colpa avevano loro se avevano una religione diversa. Ma difatti cercavo di essere gli amico e tutto, e fondamentalmente mi sentivo in colpa per essere amico loro, e questo ovviamente non penso che dipendesse da me. Ma siete che lei aveva avuto a casa una sana educazione, e che ancora scuola non era allineata con il livello di civilizzazione che si meritavano quegli anni. Sicuramente sì. Demetrio, buongiorno. Buongiorno. Io ho frequentato la scuola elementare a Reggio Calabria in periferia dal 1947 al 1952. Sono stato portato in una classe dove già c'erano 40 alunni con i banchi tradizionali. Ecco, li descriva, perché guardi che nessuno li conosce quei banchi, io li ricordo bene, come erano fatti? Erano fatti con un unico pezzo, con un ripiano sul quale scrivere. Con il buco in mezzo? Inclinato, con un buco in mezzo e con i due posti, i due buchi per metterci il calamaio dentro. Certo. Che si rovesciava sempre addosso i pantaloncini. Naturalmente era tradizionale. Banchi regolarmente incisi da generazioni che ci avevano preceduto. La cosa fantastica era che il fatto che si usasse ancora il pennino, il cannello e l'inchiostro, il cannello con il pennino diventava un ottimo giavellotto, che era uno strumento fantastico di offesa dei nostri compagni. Il lancio con l'infilzaggio del cannello col pennino erano degli sport preferiti nella mia fanciullezza triste. Il secondo consisteva nel lancio di cartoccetti che venivano inumiditi bene bene attraverso le opportune canne che portavamo da fuori, che quando nessuno ci guardava venivano infissi sul soffitto della classe. E così si preparava la generazione di quelli che poi furono gli anni di piombo, tirandosi cannelli, giavellotto e palline di carta masticate. Monica, buongiorno. Sì, buongiorno. Ricordi tristi. Una marea di ricordi tristi. Allora, il primo, dicevo alla collega Scusi, l'emozione. Però lo dica con la voce allegra, perché questa mattina raccontiamo le tristezze per stare allegri, mica per... È un po' di emozione, niente. La più buffa sarebbe che quando andavo a scuola, avevo più o meno 7 anni, sono originaria del Perù comunque. C'era la mia nonna, che la nonna paterna, no? Che lei prendeva tutti questi pepe. Parli vicino al telefono, però no... Sì, non si autosfumi. Praticamente lei prendeva tutti i vestiti belli per lei, per me niente, no? E quindi quando toccava andare a Lima a fare il mare, andare in vacanza così, ero costretta a usare vestiti sucisi. Quindi la nonna bellissima e lei vestita male? Sì, poi le scarpe magari di una taglia in meno della mia, quindi ero costretta a camminare con quelle scarpe lì che mi... Beh, un bel ricordo triste questo. Soprattutto triste, che immagino la nonna bella, imbellettata, profumata, vestita di lusso, con questa nipotina con le scarpe corte, scalcagnate, vestita di stracci. Un bel ricordo, sembrerebbe quasi degno di una storia di orfanelle, ma lei oggi qui ce la racconta, quindi è contenta e questo ci fa molto piacere. La foto ritrae me, Robin Hood, e mio fratello, Zorro, ad una festa all'asilo. La tristezza è profonda, Sig. Ogni qualvolta mio fratello rivede questa foto, ricorda la voce del fotografo che, saputo il nostro cognome, ci ha voluto ritrarre uniti, sbeffeggiandoci di fronte ai nostri compagnucci, che assieme alle maestre e alla direttrice osservavano la scena divertite. Un mesto saluto, Mauro e Claudio Chiappa. Ecco, nei miei archivi personali questa mattina ho riesumato alcune delle lettere che mi mandavano i bambini tristi una decina d'anni fa, unite alle loro foto. Questa, lo ricordo, era legata a una foto di due fratellini vestiti in maschera, uno da Zorro, un altro ricordo da che erano i fratelli Chiappa, che avevano questa sorta di terribile cognome e terribile circostanza di essere fratelli nella stessa scuola. E quindi tutti li mettevano assieme, perché i fratelli Chiappa devono stare assieme, devono essere due chiappe, e insieme devono fare un culo. E quindi sono cresciuti, poverini, con questa triste e sbeffeggiante nemesi di avere un cognome che li costringeva di stare uniti e quindi dar ragione al vincolo di amore fraterno, ma allo stesso tempo di essere oggetto tangibile dello sbeffeggio da parte di tutti i compagni. 800240024, tra un istante, dopo le informazioni della borsa, continuerete, spero, a raccontarmi i tristi ricordi della vostra triste fanciullezza. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Aiuto, aiuto! Che succede? Al fuoco, al fuoco! Paolinetta brucia! Aiuto, aiuto! Sulla porta del cortile apparve una bimbetta, le sue gonne erano in fiamme. Lo zio Annibale prese il tappeto del tavolo più vicino, corse incontro alla bimba e la volse tutta strettamente. Paolinetta era salva, sua madre entrò tutta stravolta. Non toccherò più i fiammiferi, mammina! No, non li toccherò mai più! Oh, le mie gambine! Paolinetta, Paolinetta! Ti dicevo, mammiretta! Paolinetta, che giocava con gli zolfanelli, prende fuoco, si brucia, rimane lei soltanto un mucchio di cenere con le due scarpine che rimangono intatte, e due micini, Minze e Mouse, piangono e Paolinetta non c'è più. Ah, vostra figlia più non vedrete, come un ruscello che riga i prati scorre le lacrime dei desolati. Piangono i gattini, dicono i genitori. 800240024, sto facendo una rassegna nei tristi ricordi delle fanciullezze tartassate. Non quelle che hanno subito violenze da aula del tribunale, quelle che hanno subito la tiepida, amorevole, tranquilla violenza di genitori che riponevano i figli attese smisurate, volevano che i figli fossero quello che mai avrebbero loro potuto essere nella vita. E quindi negli anni 50 e 60 c'era questa sorta di ostentazione fra i frutti del benessere economico di figli vestiti in una certa maniera, con alcuni beni di consumo, sempre tristi in delle foto immobilizzate. Qualche generazione prima ci troviamo in Germania, nel mondo cosiddetto Biedermeier. Biedermeier è un cognome tipico tedesco che a metà metà dell'Ottocento, in un, dopo la grande restaurazione, in un trionfo di placida, contenta e per bene borghesia, il signor Perbenini, veniva così chiamato, legato a tutto uno stile di case in cui doveva trapelare il benessere, la tranquillità, la rettitudine, e quindi un medico psichiatra, il dottor Eric Hoffman, inventa Pierino Porcospino, lo Struwwelpeter, che è una sorta di bambino cespuglioso con le unghie lunghe. Chi di voi sente Barbara Alberti, Guardiana del Faro, l'avrà sentito, perché è uno dei nostri miti condivisi. Io vestì mio figlio a Carnevale da Pierino Porcospino, trasformandolo in bambino triste, e tutti non sapevano quale fosse la maschera, quel bambino con i pantaloni verdi, una giacca rossa, una grande parrucca, le unghie lunghe. Pierino Porcospino era una rassegna di cose infami che non dovevano fare i bambini, pena terribili torture, terribili ritorsioni. Qualcuno lo ricorderà, la filastrocca diceva: oh, che schifo quel bambino, è Pierino il Porcospino, egli ha lunghe smisurate che non furono mai tagliate, i capelli sulla testa gli han formato una foresta densa, sporca, puzzolente. Dice a lui tutta la gente: oh, che schifo quel bambino, è Pierino Porcospino. E c'erano delle storie terrificanti: un bambino che si metteva le dita in bocca, arriva al sarto con le forbici, taglia le dita. Io ricordo da bambino, vedevo, perché naturalmente a me me l'avevano regalato subito in tenera età, perché non potevo fare a meno, e me lo leggevano continuamente. Arriva il sarto, zac zac, gli taglia le unghie, se questo bambino con le manine insanguinate gli taglia le dita, e con le dita per terra. Oppure appunto Paulinella che prende fuoco perché giocava con i fiammiferi. Oppure c'era la storia del moretto, dei bambini cattivi che prendono in giro un moretto, che è un bambino nero che gira con un ombrello in testa e dei ridicoli pantaloni rossi. Lo prendono in giro, arriva una sorta di vecchio con la papalina, li intinge dentro il calamaglio e l'inchiostro, e diventano tutti neri anche loro. O il fiero cacciatore che posa il fucile, arriva la lepre, gli spara e lo ammazza. Ci sono delle cose terribili. Oppure un altro bambino che camminava col naso in su e affoga dentro il fiume. Insomma, dietro ogni comportamento scorretto, non allineato con i canoni del perbenismo della famiglia, c'era sempre si apriva un terrificante luogo di tortura e di espiazione. Gianna, buongiorno. Buongiorno. Intanto mi scuso per la voce perché sono influenzata. Io ho telefonato stamani perché quando ero piccola, cioè in seconda classe... Ma tutti di scuola parlate, la famiglia viene esclusa dai ricordi tristi, guardate questa selezione... La famiglia c'entra però un po' in questo caso, per il semplice fatto che io ero la terza di quattro figli, e a quell'epoca non è che ci accompagnavano a scuola fino da piccoli, la strada è dovevi fare, la dovevi... Che epoca era? Vediamo di che anno parliamo. E quindi... Che anno parliamo, Gian? Io sono del 46, quindi finisco 66 anni domani. Stamattina ho dato un po' la stura alla parte più fresca del nostro pubblico. Beh, mi fa piacere. No, lo sa perché? Sì? Perché vedo che questi ricordi tristi, con coraggio e con determinazione e con leggerezza, la generazione che va dai 50 ai 60 anni se ne libera volentieri. Quelli un po' più giovani si tengono dentro, si illudono di non aver avuto ricordo di fanciullezze triste. Ma ne avranno meno. Ma che ne avranno meno? Ma stiamo scherzando? Ma che no. Ne avranno meno? Ma si figuri. È che sono che ancora non hanno aggiunto la leggerezza di chi come noi ha già un piede nella fossa e quindi può dire tranquillamente tutto. Ecco, forse sarà quello. Avanti, comunque Gianna. Avevo difficoltà a leggere in classe, per cui ogni volta che cominciavo a leggere la maestra molto carinamente diceva: adesso ridiamo perché legge Gianna. A parte il mio nome vero è Ambretta, comunque io mi chiamo... Beh, già aveva una condanna sin dalla nascita a chiamarsi Ambretta. Sì, questa è la cosa più triste. Per cui insomma, comunque legge lei, quindi ridiamo tutti. Io con questa angoscia non ho mai saputo leggere a voce alta. Lei pensi, Gianna, le posso dire, mi ha improvvisamente fatto tornare un cammellino nella memoria in testa. A me facciano la stessa cosa. Io, perché avevo l'R moscia, accomunato una sorta di ghetto nella scuola elementare, assieme altri due con l'R moscia, un altro lievemente balbuziente, uno con la zeppola, eravamo la parte differenziata della classe. Eravamo costretti a fare esercizi inutili, perché mi è rimasta l'R moscia a 55 anni ancora, perché avevamo questo difetto di pronuncia. Ogni volta che leggevo io, metteva volutamente la maestra una serie di parole piene di R, cercando di spiegarmi come si pronunciasse l'R, cosa che non ho mai imparato. Però molto, l'epilogo mio magari è stato un pochino diverso, per il semplice fatto che poi io appunto ero accompagnata dalla i miei genitori non erano di quelli che andavano a ossequiare la maestra, e poi mio papà era malato di sindrome schizofrenica. Io sono sempre stata una bambina estremamente allegra, però, e non con questo. E niente, praticamente mi hanno messo nelle classi differenziali insieme ai bambini con difficoltà. Semplicemente perché era un po' balbuziente. Perché la mia famiglia non mi seguiva, non portava regali, non era già segnato. Fiori. Vabbè, questo è un sano e concreto ricordo triste. Luigi, buongiorno. Ciao Nicoletti. Allora, come ti ho scritto, posso raccontarti della mia infanzia, come dici tu, triste in famiglia. Diciamo che da ragazzino, io sono del 62, sono stato costretto oppure per via di una educazione ecclesiale del mio papà. Che ti hanno fatto? Ci rasavano a me e mio fratello i capelli a zero. Questo accadeva, sì, perché dicevano che almeno non vengono i pidocchi, questa era la risposta. Forse, sicuramente era quello, perché mi ricordo che il periodo era quello. I pidocchi ci sono ancora, solo che oggi le mamme hanno dei profumatissimi shampoo antipidocchio. Se li prendono anche loro, ma fingono nulla, e poi li attaccano ai loro amici, frequentatori, amanti. Quindi, certo. Però nessuno rasa più i capelli a zero. No, era l'unico in classe con i capelli a zero. E immagina la tristezza che mi ha accompagnato per tutti gli anni delle elementari. E se non sbaglio fino anche qualche anno delle scuole medie, forse anche la prima, forse. Vabbè dai, oggi se la natura e il testosterone glielo permette, si può far crescere i capelli quanto vuole, quindi stia tranquillo. Mauro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io incuriosito da questo tema di oggi, volevo darvi il mio contributo. Io parlo degli anni 50, quando io avevo circa una decina d'anni. È vero che non ne usciamo comunque, quello è il periodo che probabilmente si concentra la maggiore virulenza di bambinaggine triste. Cosa succedeva? Succedeva, no? Il mio non è un ricordo di violenze di famiglia o di cose di questo tipo. Ma qua nessuno parla di violenze, parla di prassi. Psicologiche, sì, una cosa che non ho mai dimenticato. La mamma è rimasta vedova, ha dovuto rientrare in famiglia, allora erano tempi difficili, anche sotto l'aspetto dei rapporti con i vecchi nonni. E cosa succedeva? E succedeva che la mamma aveva con una vecchia zia ricca, che era ricca, noi eravamo invece poveri, e aveva dei rapporti, evidentemente l'ho capito poi dopo, avevo dei certi obblighi. E io lo avevo capito subito, è una cosa che mi è rimasta nel cuore, mi fa sempre molta tristezza. Il giorno di Natale la mia mamma mi vestiva di tutto punto, pantaloncini corti, cappellino, che allora si usava col cappellino salutare sempre tutti, si toglieva il cappellino, si diceva buongiorno e si rimetteva il cappellino. E andavamo a trovare questa vecchia zia che abitava nelle alture di Genova, in una grande bella casa. E arrivavamo, mi ricordo, dove c'era tutto imbandito, questa zia a Natale aveva ospiti, aveva... Ogni ben di Dio. E poi? Ogni ben di Dio. Noi arrivavamo circa una mezz'oretta prima e il mio scopo, io l'ho capito poi la seconda vista che ho fatto di Natale, il mio scopo non era quello di essere invitato. E allora avevamo anche, non dico... Sì, vada al punto, devo segarla. Lo scopo di ossequiare questa vecchia zia. Lei era l'ostaggio vivente che sua madre mandava a casa della zia per avere probabilmente qualche aiuto di tipo concreto, economico, gli dava il bambino lì, doveva impietosire la zia perché scucisse un po' di grano che sotto Natale magari le faceva anche bene all'anima. Grazie, 800 24 00 24, tra un istante dopo le informazioni del traffico. C'est connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Mi rendo conto di non rientrare per ovvie ragioni anagrafiche nella regione temporale dei bambini tristi, ma desidero comunque farti partecipe della mia tristitudine infantile. Ti invio perciò queste due foto. La prima è in bianco e nero e ritengo risalga al 78. Questa foto mi immortala in un gigantesco pentolone da calda arroste, sottoposto alle angherie allo scherno dei bambini tristi più grandicelli. Non ricordo assolutamente la ragione per cui mi avessero messo lì dentro, ma sulla destra si intravede la gamba di un altro bambino, immagino anch'egli triste, che spunta da un omologo pentolone. Questo è un altro ricordo delle foto dei bambini tristi di un concorso che lanciai più di 10 anni fa alla radio. Ricordo fui subissato, ma arrivarono centinaia di foto che rappresentavano probabilmente l'orgoglio del ricordo dei genitori, ma rappresentavano allo stesso tempo la gogna infame dello svergognamento e della traccia tremenda e profonda della tristezza nel cuore di chissà quanti bambini. Anche Fabrizio Intonti ricorda di possedere una foto degli anni 70 a cui compare come pastorello nel presepio vivente della scuola. È stato 2 ore e mezzo in piedi, era uno strazio, gli toccava sorridere. Io ricordo la più triste delle foto della mia fanciullezza, io e mio fratello vestiti da prima comunione. Avevamo un vestito beige, color tortora, terribile, coi pantaloni corti al ginocchio. I nostri amici avevano tutti il vestito blu con i pantaloni lunghi. Non so perché ci hanno condannato quella sorta di infame mortificatorio vestitino. Con la medaglietta di latta che ci regalava il prete con il nastrino, posiamo nel giardino di casa con delle facce che sembravamo che in quel momento avessimo varcato la soglia dell'inferno e non avessimo preso la comunione. La seconda foto è successiva di qualche anno e a colori, fatta in una bella giornata di sole splendente, rappresenta una bambina sorridente travestita da Minnie che mostra orgogliosa il suo codino. Il vestitino di carnevale è ben fatto. Cosa ha a che vedere questa foto con i bambini tristi? Un solo, semplice e agghiacciante fatto, quella bambina sono io. Un maschietto costretto a travestirsi da Minnie per poter adeguatamente riciclare gli abitini della cugina. Non credo che possa esistere tortura psicologica più terribile e infame. Il fotografo, padre di un mio amico, incaricato di fare una foto al gruppo dei maschietti ed uno a quello delle femminucce, ha lungamente esitato sulla mia esatta collocazione, finendo per chiedere lumi alla maestra. Tra i miei amici, vestiti da zorro e da cowboy, da guerriero mongolo, era il periodo di Marco Polo, o da pirata, che potevano gloriarsi delle loro terribili armi in plastica e gomma piuma, io potevo sfoggiare solo un paio di guanti bianchi ed una sottile collana di finte perle. Tristemente saluto, il Maranza. Pensate la tristezza di questo bambino costretto per riciclare il vestito da Minnie e la cugina a vestirsi da donna, a topolina. Pensate quale trauma, pensate quale schiacciante peso ancora si porterà, ammesso che sia vivo, nell'animo e nella coscienza. Elena, buongiorno. Buongiorno. È proprio dalle fotografie che vorrei partire, perché sono le fotografie che mi trasmettono le tristezze che mi porto dietro. Però lo dica con allegria, perché ormai sono passate, certo, chi sì, se ne frega. Allora, la prima cosa... Ci rida sopra. Siccome sono una mancina, sì, e mi facevano intrecciare i lacci del metodo montessoriano. Sì, lo so benissimo, anch'io ho fatto quell'orribile. Intrecciare in un certo modo, e io non ce la facevo mai, quindi veniva sempre via a tirarmelo via la suora dalle mani, a dirmi: ma come, non capisci di fare così, come poi non capisci. Sì, perché era la mano del diavolo, non veniva ammesso l'essere mancini, era una struttura che andava, certo, comunque modificata, me lo ricordo. Infatti non voglio dirle cosa è successo poi alle elementari, perché quello su quello stendo un velo pietoso. No, non lo dica, no, a questo punto mette curiosità. Ma e niente, mi tenevano la mano dietro, uguale se la tiravo fuori, quindi... Come dietro? Dietro alla schiena, la mano... Gli allegavano? Dietro. No, dovevo tenerla dietro, passava continuamente a vedere, io continuamente la tiravo fuori, ma me la faceva nascondere dietro la schiena. Ah, perché non la usasse? Perché non la usasse. Ma poi chissà cosa succedeva se la usava la sinistra, che non poteva. Appunto, niente, non si poteva usare quella mano lì, tant'è vero che io per il mio mancinismo ho rifatto la quinta elementare, perché non avevo ancora imparato ad usare la destra. Ma questo sembra paradossa. Che anno era, solo per capire? Sono nata nel 51, quindi parliamo, ero a Trento, Pergine, Valsugana. Era il 59. No, interessante che va riscritta la storia del nostro paese, comunque va integrata di questi episodi. Che all'inizio degli anni 60, anni del fiorire della rinascita del nostro paese, ancora c'era una bambina costretta a rifare la scuola elementare semplicemente perché era mancina, non aveva nessun problema, poteva benissimo fare una vita più che normale, il mondo è pieno di mancini felici e essere mancini equivale, anzi, è un punto in più, perché si possono usare delle caratteristiche che la persona che usa soltanto la mano destra non può usare, quindi se ha delle chance in più era costretta a rifare la classe. Manuela, buongiorno. Sì, buongiorno. Il mio ricordo di tristezza riguarda una norma educativa di mia madre e di tutta la mia famiglia. Già mi viene da ridere. parlo dalla fine degli anni 50, ero una bambina, io sono del 50, quindi verso il 58-59, allora si andava a fare la spesa, quindi andavo dal panettiere per comprare il pane e io avevo visto un dolcetto che allora era una piccola gallina, non so se si ricorda, visto che lei è più o meno della mia età, una gallina di zucchero che faceva le uova sul proprio cestino e io la comprai. Ritornai a casa, mia madre quasi mi schiaffeggiò perché io avevo fatto un acquisto non autorizzato e quindi fui obbligata a ritornare. Mi sta sentendo? Sì, sì, sì. Ah, mi scusi perché passo un aereo. Ah. Sono stata obbligata a tornare dal panettiere umiliatissima e questo a riportare la gallina. Prego? A riportare la gallina, farmi ridare i soldi e riportarli a casa. Quindi io mi sono sentita umiliatissima perché non sapevo come affrontare il rapporto con la panettiera, a dire che non era stata la mamma a consigliarmi. Ma l'ha capito la panettiera. Sì, e quindi sono rimasta veramente umiliata da questo comportamento. Non ci si rende conto quanto una cosa apparentemente trascurabile, probabilmente con la scusa che è fatta fir di bene, rappresenti un trauma profondo. Lei dopo tanti anni ancora si ricorda la gallinella che non avrebbe fatto male a nessuno, che poteva tenersi benissimo, costretto a una sorta di percorso di ignominia, di vergogna, di riportarla indietro. Perché? Perché non era autorizzata ad avere un momento di piacere. La negazione del piacere ai figli, la negazione alla soddisfazione, alla gioia, al sorriso, alla leggerezza, con la pretestuosità che ciò faccia bene, educhi, raddrizzi e impari ad essere brave persone, probabilmente è la maggior fonte di tristezza delle nostre fanciullezze e la maggior gioia di noi che ormai siamo vecchi e possiamo trasgredire tutto quello che vogliamo. Ecco l'acqua santa. Io ti battezzo nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Il 3. Tristina, carissimi, vi invio un mio contributo iconografico per la Galleria dei Tristini. Nonostante la mia infanzia sia in realtà normalmente felice, ritengo che questa fotografia abbia le carte in regola per entrare nella vostra rassegna. Infatti mi ritrae da sola, quasi 30 anni fa, vedasi il bordo della foto, e il meglio sta nell'accessorio che tengo in mano. Un giornale locale di partito, come dimostra lo scudo crociato visibile proprio nel centro dell'immagine. In questo modo mi gioco anni e anni di inquadramento a sinistra, ma dovevo condividere con qualcuno il mio scheletro nell'armadio. Ciao a tutti, Carla. Ecco, mi viene in mente la sonorizzazione di questa vecchia telefonata. È un pezzo fantastico di radio, è il premio Italia che vinse Giorgio Presburger negli anni 70, trasformando in sonorità radiofonica un quadro. Era Giochi di bimbi di Bruegel il Vecchio. Lui mise qualche decina di bambini in uno studio della radio, li fece giocare, riprese tutto con dei particolari microfoni e venne un fantastico documentario. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, velocemente perché vedo che il tempo stringe. Io volevo solo raccontarle un fatto che è successo. Io abitavo in un paesino del Delta del Po e naturalmente era il periodo dei Beatles, Rolling Stone e via dicendo, là arrivava solo una piccola radio e organizzarono nel 68, io avevo allora 17 anni, organizzarono un pullman per andare a Torino a vedere il concerto, al che il pullman partiva dal capoluogo, cioè dove era il comune a Porto Tolle. Io cercavo di documentarmi quanto costava e tutto e volevo iscrivermi. Chiesi a mio padre, che era piuttosto rigido nella sua cultura, diciamo così, ferrea, mi disse: dov'è che vuoi andare tu? Allora io gli dico: papà, sai, c'è il pullman, vanno a Torino, ci sono i Beatles, che è un concerto. E lui mi ha detto: cos'è che vuoi andare a vedere? I Beatles? Perché poi naturalmente. Lo pronunciavo così. Ah, allora va bene, vai a vedere i Beatles, però trovati anche casa e da mangiare, perché a casa tua non vieni più. Lo cacciava di casa per andare a vedere un concerto. Per andare a vedere un concerto. E quale scelta fece? Lei rimase a casa naturalmente. È chiaro, cioè io poi ero un po' spaventato perché mio padre era piuttosto tosto anche quando combinavo qualcosa. Io ero un po' un folletto matto, però sai, lui andava giù di brutto. Mi ricordo che mia madre diceva: ma sì, dai, lascialo andare, cosa vuoi, va con altri bambini, c'è una corriera, c'è un pullman, c'è una compagnia. Ma lui già intuiva il pericolo di quel concerto, di quella cultura, di quel tipo di musica, e quindi la tenne fermo, ancorato a casa, perché la casa non si lascia. Guai, chi la lascia è un traditore e deve essere punito per sempre. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti, grazie a quanti hanno avuto il coraggio questa mattina di rivelarci il triste fardello della loro lontana fanciullezza. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie.